Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij. Traduzione di Alfredo Polledro. Ventesima puntata. Di lì a un quarto d'ora correvo avanti e indietro per la camera in uno stato di furiosa impazienza. Mi avvicinavo ogni minuto al paravento e da una fessura guardavo Lisa. Era seduta sul pavimento con la testa reclinata sul letto e probabilmente piangeva, ma non andava via. E questo appunto mi irritava. Stavolta sapeva ormai tutto. L'avevo definitivamente offesa, ma è inutile raccontarvelo. Lei aveva indovinato che il mio accesso di passione era appunto una vendetta, una sua nuova umiliazione, che al mio odio di poco prima, quasi senza oggetto, si era aggiunto ormai un odio personale, invidioso, verso di lei. Ma del resto, non affermo che tutto questo l'avesse capito distintamente, ma in cambio aveva capito benissimo che ero un uomo abietto e soprattutto che non ero in grado di amarla. So che mi diranno che questo è inverosimile, che è inverosimile essere maligno e stupido come me. Magari aggiungeranno ancora che era inverosimile non amarla o perlomeno non apprezzare quest'amore. Ma perché è inverosimile? Perché? In primo luogo, amarla non potevo più. Perché, lo ripeto, amare per me ha sempre voluto dire tiranneggiare e avere una superiorità morale. In tutta la mia vita non ho mai potuto immaginarmi un amore diverso e sono giunto al punto che ora penso a volte che l'amore consista appunto nel diritto volontariamente concesso dall'oggetto amato di tiranneggiarlo. Anche nei miei sogni del sottosuolo non mi sono mai figurato l'amore se non come una lotta. L'ho sempre cominciata con l'odio e terminata col soggiogamento morale e perciò non potevo nemmeno più immaginarmi che cosa dovevo fare dell'oggetto soggiogato. E che c'è poi di inverosimile? Quando ero ormai riuscito a guastarmi moralmente a tal punto, avevo perso a tal punto l'abitudine alla vita vivente che poco prima avevo pensato di rimproverarla e svergognarla perché era venuta da me ad ascoltare delle parole pietose e non avevo neppure indovinato che non era venuta affatto per sentire delle parole pietose, ma era venuta per amarmi, già che per la donna è appunto nell'amore che si racchiude ogni resurrezione, ogni salvezza da qualsiasi rovina e ogni rinascita. Ne può manifestarsi se non in questo. Del resto, non la odiavo più tanto mentre correvo per la camera e dalla fessura gettavo delle occhiate dietro il paravento. Mi era solo intollerabilmente penoso che fosse lì. Volevo che sparisse. Io desideravo la tranquillità, desideravo rimanere solo nel sottosuolo. La vita vivente, per la mancanza di abitudine, mi aveva schiacciato al punto che provavo difficoltà perfino a respirare. Ma passarono ancora alcuni minuti e lei continuava a non alzarsi, come se fosse assopita. Io ebbi l'impudenza di picchiare leggermente sul paravento perché ricordasse. Lei si riscosse a un tratto, balzò su e si precipitò a cercare il suo scialletto, il suo cappellino, la sua pelliccia, quasi volesse sfuggirmi, fuggendo chissà dove. 2 minuti dopo uscì lentamente da dietro il paravento e mi guardò dolorosamente. Io sorrisi, con malignità, a fatica del resto. Per convenienza, e schivai il suo sguardo. «Vi saluto», disse, dirigendosi verso la porta. A un tratto le corsi vicino, le presi la mano, la persi, vi misi qualcosa e poi la chiusi di nuovo. Quindi mi voltai subito dall'altra parte e balzai in fretta in un altro angolo per non vedere almeno. Stavo già per dire una bugia in questo momento, per scrivere che questo l'avevo fatto per caso, fuori di me, smarrito, da sciocco. Non voglio dire le bugie. E perciò dico francamente che le apersi la mano e vi misi qualcosa. Ma per malignità. Mi era venuto in mente di farlo quando correvo avanti e indietro per la camera e lei era seduta dietro il paravento. Ma ecco, quello che posso dire con sicurezza. Questa crudeltà la commisi apposta, è vero, ma non mi veniva dal cuore, bensì dal mio cervello cattivo. Questa crudeltà era talmente finta, talmente cerebrale, scogitata, apposta, libresca, che anch'io non resti nemmeno un minuto. Dapprima balzai in un angolo per non vedere e poi con vergogna e disperazione mi precipitai dietro a Lisa, apersi la porta che portava nell'ingresso e mi misi in ascolto. «Lisa! Lisa! Lisa!» gridai verso la scala ma senza risolutezza a mezza voce. «Lisa!» non ci fu risposta. «Lisa!» mi parve di sentire i suoi passi sugli scalini più bassi. Gridai più forte. Nessuna risposta. Ma in quello stesso momento sentii dal basso come si aperse pesantemente stridendo la dura porta esterna a vetri che dava sulla via e si richiuse con rumore e con sforzo. Un rombo sordo salì su per la scala. Lisa se n'era andata. Io tornai nella stanza indeciso. Mi sentivo tremendamente oppresso. Mi ero fermato vicino alla tavola, accanto alla sedia dove era stata seduta lei, e guardavo insensatamente davanti a me. Passò circa un minuto e a un tratto sussultai tutto. Sulla tavola scorsi uno stazzonato biglietto turchino da 5 rubli. Quello stesso che un minuto prima le avevo chiuso in mano. Era quel biglietto. Non poteva essere un altro. Non ce n'era un altro in casa. Vuol dire che lei era riuscito a buttarlo sulla tavola nel momento in cui ero balzato in un altro angolo. Bene. Mi potevo aspettare che lo facesse. Potevo aspettarmelo. No. Ero talmente egoista, talmente poco rispettavo la gente in realtà, che non potevo nemmeno immaginare che perfino lei avrebbe fatto questo. Questo non lo potei sopportare. Un istante dopo mi precipitai come folle a vestirmi, gettandomi addosso quello che potei nella furia, e corsi fuori a precipizio dietro a lei. Ella non aveva ancora avuto il tempo di fare nemmeno 200 passi quando uscii di corsa sulla via. Tutto era silenzioso. Veniva giù la neve e cadeva quasi perpendicolarmente, stendendo una coltre sul marciapiedi e sulla via deserta. Passanti non ce n'erano, non si sentiva alcun rumore. Tristi e inutili rilucevano i lampioni. Corsi per 200 passi fino al crocicchio e mi fermai. Dove era andata? Perché le correvo dietro? Perché? Dovevo gettarmi a terra davanti a lei, singhiozzare di pentimento, baciarle i piedi, supplicare il perdono. E lo volevo. Tutto il mio petto era dilaniato e mai, mai, mai ricorderò con indifferenza questo momento. Ma perché? Perché non la odierò forse magari domani stesso, precisamente perché oggi le ho baciati i piedi? Le darò forse la felicità? Oggi non ho forse imparato di nuovo per la 100ª volta quanto valgo io? Forse che non la torturerò? Stavo fermo nella neve, scrutando la nebbia torbida, e pensavo a questo. E non sarà meglio. Non sarà meglio, fantasticavo già a casa più tardi, soffocando con le fantasie la viva pena di cuore. Non sarà meglio se ora lei si porterà via un'offesa che duri sempre. Offesa, offesa, offesa, ma questa è purificazione. È la più caustica e dolorosa consapevolezza. Domani stesso le infangherei l'anima con la mia presenza e le farei stancare il cuore. Invece l'offesa ora non morirà mai più in lei, e per quanto sia sudicio il fango che l'aspetta, l'offesa la eleverà e purificherà. Con l'odio, forse, anche col perdono, ma del resto, le verrà un sollievo da tutto questo. Ma sul serio adesso, ormai, per mio conto pongo una domanda oziosa. Che cosa è meglio? Una felicità a buon mercato o delle sofferenze sublimi? Ebbene, cosa è meglio? Questo mi passava per il capo mentre io stavo in casa quella sera, tramortito dal dolore morale. Non avevo ancora mai sopportato tanta sofferenza e tanto pentimento, ma poteva forse esserci qualche dubbio quando uscivo correndo dall'alloggio che a metà strada non sarei tornato a casa. Non ho mai più incontrato Lisa e non ho mai più sentito parlare di lei. Aggiungerò pure che restai contento a lungo della frase sull'utilità dell'offesa e dell'odio, nonostante che anch'io allora per poco non mi ammalassi dalla malinconia. Perfino ora, dopo tanti anni, tutto questo mi ritorna alla memoria in modo troppo poco bello. Molte cose ora mi tornano alla memoria in modo poco bello. Ma non è il caso di terminare qui le mie memorie. Mi pare d'aver commesso un errore cominciando a scriverle. Perlomeno mi sono vergognato per tutto il tempo che ho scritto questo racconto. Vuol dire che questa non è più letteratura, ma un castigo emendatore. Perché scrivere, per esempio, lunghi racconti sul modo come ho sciupato la mia vita, corrompendomi moralmente nel mio angolo, con l'insufficienza dell'ambiente, col disabituarmi a quanto è vivo o col puntiglioso rancore del sottosuolo. Giuro, non è interessante. In un romanzo ci vuole un eroe, e qui sono stati raccolti apposta tutti gli elementi di un antieroe, e più che altro ciò produrrà un'impressione alla debole, perché tutti noi ci siamo disabituati alla vita. Tutti zoppichiamo, chi più, chi meno. Ce ne siamo anzi talmente disabituati che sentiamo talvolta un certo disgusto per l'autentica vita vivente, e perciò non possiamo tollerare che ce la ricordino. Infatti, siamo arrivati al punto che l'autentica vita vivente la consideriamo poco meno che una fatica, quasi un servizio, e siamo tutti d'accordo dentro di noi che attraverso i libri le cose vanno meglio. E in che cosa ci perdiamo a volte? Per che cosa smaniamo? Che cosa chiediamo? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo neppure noi. E peggio per noi se le nostre smaniose preghiere saranno esaudite. Beh, provate un poco. Dateci, per esempio, un po' di indipendenza. Slegate le mani a uno qualunque, indebolite la tutela e noi... Sì, ve lo assicuro. chiederemo subito di ritornare sotto tutela. So che forse voi vi arrabbierete con me per questo. Vi metterete a gridare, pesterete i piedi. Parlate, direte, solo per voi, per le vostre miserie del sottosuolo, e guardatevi dal dire tutti noi. Signori, signori, permettete. Io non mi giustifico mica con questo tuttismo, per quanto poi riguarda propriamente me. Non ho che portato alle estreme conseguenze nella mia vita quello che voi non osavate portare nemmeno fino a mezza via. E per giunta la vostra viltà la prendevate per saggezza. E con ciò vi consolate, ingannandovi da voi. Sicché, in conclusione, sono magari ancora più vivo di voi. Ma guardate un po' più attentamente. Noi non sappiamo nemmeno dove stia ora ciò che è vivo e che cosa sia, come si chiami. Lasciateci soli, senza libri. E ci confonderemo subito. Ci smarriremo. Non sapremo dove far capo, a che cosa attenerci, che cosa amare, che cosa odiare, che cosa rispettare, che cosa disprezzare. Noi sentiamo perfino il peso di essere uomini, uomini, con un autentico e nostro corpo e sangue. Ce ne vergogniamo, lo consideriamo come un disonore e cerchiamo di essere non so che immaginari uomini universali. Siamo dei nati morti ed è già un pezzo che non nasciamo più neppure da padri vivi. E questo ci piace sempre di più. Ci prendiamo gusto. Presto escogiteremo il mezzo di nascere in qualche modo da un'idea. Basta. Basta. Non voglio più scrivere dal sottosuolo. Del resto le memorie di questo paradossista non finiscono qui. Egli non ha resistito e ha seguitato, ma anche a noi sembra che qui ci si possa fermare. Chiara Guidi ha letto Memorie del sottosuolo di Fiodor Dostoevskij, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it. Per riascoltare il programma, radio3pod.rai.it.